Buonasera a tutti, buonasera, questa è Radio Cerrano Web e questa sera tornano le schegge impazzite del sottoscritto, lasciato solo questa sera e comunque insomma credo di farvi buona compagnia questa sera perché dedicheremo la serata a questo splendido, grandissimo cantautore e quindi Radio Cerrano Web, ve lo ricordo, è una di quelle stazioni radio, ecco, chiamiamole così, un po' all'antica, però ci piace, di quelle stazioni radio che si sono in qualche modo modernizzate, siamo arrivati sulla rete, ed è una stazione radio che in qualche modo cerca un po' di darvi informazioni, di essere un po' di servizio, di darvi naturalmente anche propinarvi, lasciatemi passare questo termine, anche della buona musica, soprattutto della buona musica, ma anche di far arrivare nei posti più lontani quello che è l'eco anche della nostra territorio, della nostra terra. Torre Cerrano, Radio Cerrano non è a caso, Cerrano è un territorio che comprende diversi comuni, ma soprattutto al cui interno è una delle riserve, un parco marini, lasciatemelo dire, insomma, più belli, più particolari, anche perché è un parco marino, quello della Torre di Cerrano, che comprende non solo fauna, flora, mare splendido, ma anche storia, cultura millenaria che potete trovare sotto il mare, sopra il mare e anche nella parte, diciamo, collinare. Insomma, veniteci a trovare, noi sono 7 km di costa, bellissima. Questa radio naturalmente porta il nome di questo parco marino, ma anche dell'intero territorio che comprende comuni come Pineto, Silvi, Atri, ma poi insomma si può allargare anche verso Roseto. Insomma, stiamo parlando anche di comuni che sono anni che hanno la bandiera blu, non solo, la bandiera verde. E noi siamo qui anche per comunicarvi questo e siamo contenti e saluto subito tutti quelli che ci stanno ascoltando via Facebook, che sono abbastanza, c'è Giuseppe, c'è Marco, c'è Elio sarà nostro ospite la prossima settimana con un bellissimo tema da sviscerare in qualche modo, e poi c'è Vincenzo. E io li saluto tutti, anche perché è un pubblico di qualità, vedo, e sono contento. E, dicevo, questa sera dedicheremo una serata a un cantautore splendido. Pensate che Lou Reed nel 2008, nella sua introduzione al Roll Hall of Fame americana, usò le parole del tipo, lo presentò come... il cantautore più grande e più influente degli ultimi anni. Stiamo parlando di Leonard Cohen. Leonard Cohen è veramente un pezzo da 90, un qualcosa che sicuramente misto tra cantante, autore e poeta, anche perché inizia la sua carriera appunto come poeta, ma io non mi voglio dilungare molto con le parole questa sera e voglio subito passare

percorreva un po' le strade europee, quindi in qualche modo fu anche importante per la famiglia Cohen questo spostamento. Lui naturalmente è nato a Montreal e io vi posso assicurare che in Canada Leonard Cohen è considerato veramente un mito. Io ho avuto la fortuna di essere a Toronto alcuni anni fa e di visitare un famoso teatro di Toronto, che è il Ford Center, e dietro le quinte eravamo così noi, dei piccoli personaggi italiani che erano arrivati a questo splendido teatro. E io mi ricordo questa porta chiusa dietro i camerini con il nome di Leonard Cohen, ed era il suo camerino privato che lui utilizzava naturalmente quando si esibiva in quel teatro. E così, domandando anche ad alcune persone che erano lì, traspariva appunto dalle parole di questi canadesi l'ammirazione per questo grandissimo poeta, artista. Credo anche giustamente, perché comunque il Canada, un paese molto giovane, era alla ricerca di miti, di personaggi importanti su cui naturalmente costruire la propria identità di popolo. E Leonard Cohen è veramente uno di quelli che racchiude tutte le caratteristiche, le caratteristiche sia della multietnicità di questo paese, sia dell'accoglienza che questo paese ha avuto e continua ad avere nei confronti di tantissime persone che provengono dalle parti più svariate del mondo e anche dalle religioni più svariate. E Leonard Cohen è uno di questi. Ma poi naturalmente vedremo con il proseguio del programma, vedremo quanto poi ha pesato sulla attività artistica di Cohen, anche quanto hanno pesato determinati temi sociali importanti, anche politici, ma soprattutto sociali, io direi di anche questo, così da far trasparire anche i vari problemi che una famiglia come la sua ha dovuto sopportare. E quindi dicevo, una famiglia che si è trasferita in Canada, padre polacco, madre lituana, si trasferisce in Canada un po' prima del 34, e Cohen, famiglia ebraica, Cohen perde il padre quasi subito, perché lui aveva 9 anni quando il padre muore. Tra parentesi, diciamo che già nelle sue vene scorreva un po' di sangue di artista, perché comunque il padre e il nonno, quindi il padre di sua madre, era uno dei più importanti scrittori talmudici, Solomon Kloniski Klein, e questo è un po' un nome difficile. E quindi insomma lui, diciamo che inizia proprio la sua carriera più che altro come scrittore, come poeta, come intellettuale, però poi un po' alla volta allarga le sue vedute, cerca di avere questa visione un po' più ampia, e insomma diciamo che la musica, le parole, quindi i testi, difficilmente poi si scindono, e lui ha seguito questo bellissimo percorso che poi lo ha portato proprio in cima alle vette creative, credo, più alte. Everybody knows that the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed, everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fix. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Just die. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you. Everybody knows that's how it goes. Diciamo che io non... è una piccola comunicazione di servizio per quelli che mi stanno ascoltando, che stanno ascoltando questa radio che ricordo essere Radio Cerrano Web. E quindi mi corre l'obbligo, come diceva un amico mio, salutare anche Amir, che ha un cognome difficilissimo, quindi insomma credo che sia il cognome quello, non ci riesco proprio a... non riesco più a pronunciarlo. Poi saluto Velia, Mariangela, Eros che si è collegato adesso, Sandro anche, che sta guardando la trasmissione. Li saluto tutti, questi stanno guardando la trasmissione naturalmente attraverso la nostra pagina Facebook. Poi ci sono altri amici che ci stanno ascoltando direttamente dalla radio. Ci arrivano anche saluti da Trastevere, Elio che ci sta, ecco, Eros ci saluta col famosissimo pollicione di Facebook, il famoso likes. Sto leggendo dei libri, amici, sui likes su Facebook e su altro, che insomma magari un giorno ne parleremo. Si è aggiunto anche Gianluca adesso. E dicevo, stiamo parlando di Leonard Cohen, uno dei più grandi artisti canadesi, ma insomma uno dei più grandi artisti mondiali. Io credo che ormai Leonard Cohen sia un artista patrimonio un po' di tutti, però in particolare credo che sia un artista che incarna al 100% la multiculturalità, che incarna al 100% questa globalizzazione, ma nel senso positivo. Però dicevo, una piccola comunicazione di servizio: io sto mandando brani che non seguono, come quelli che conoscono Cohen probabilmente lo avranno già notato, a parte Suzanne, ma non seguono una linea temporale ben precisa, quindi è una scaletta che ho fatto un po' a mio gusto. Everybody Knows è quello che abbiamo ascoltato poc'anzi, e quindi noi avremo un po', balzeremo dagli anni 70 per tornare ai 90, al 2000, insomma, quindi diciamo che non è una scaletta cronologica, ecco, questo ve lo volevo dire, però penso che chi ama questo immenso autore sicuramente se ne sarebbe accorto. Dicevamo, gli inizi di Cohen sono inizi di scrittore, di poeta, di intellettuale, perché lui, dopo essersi iscritto all'università, lui si è iscritto, pur vivendo a Montreal, che come molti di voi sapranno è una città francofona, lui però viveva nel quartiere anglofono, quindi si iscrisse alla facoltà, all'università McGill di Montreal, e si laurea proprio in letteratura inglese. Questo avviene nel 55 e proprio nel periodo, diciamo, universitario, lui comincia ad approcciare il mondo della poesia, e quindi l'uso delle parole in senso poetico. Naturalmente c'è una frase che mi piace ricordare, che credo un po' racchiuda tutta la poetica di Leonard Cohen, tutta la sua essenzialità, che poi credo si sia anche un po' riverberata in quella che è la sua voce, anche il suo timbro, il suo modo anche di porgere le canzoni. Lui diceva: vorrei dire tutto ciò che c'è da dire in una sola parola, odio quanto possa succedere tra l'inizio e la fine di una frase. Questa è credo che sia una frase emblematica dell'intero operato artistico di questo autore, e l'essenzialità, lo scarnificare in maniera importante tutto ciò che è poetico, tutto ciò che è musica, tutto ciò che poi viene proposto al pubblico. E in questo diciamo che l'ha aiutato tantissimo la sua voce. Poi ripeto, i suoi inizi sono poetici. Lui nel 1957, infatti, con il titolo di Six Montreal Poets, praticamente incide un album che tecnicamente viene definito un reading album, cioè quindi un album che contiene delle letture con 8 poesie. E poi invece nel 61 viene pubblicata la sua prima raccolta di poesie, The Spice Box of Heart. E riceve tantissime critiche positive, tant'è vero che lui in qualche modo i critici letterari di quel tempo lo definiscono come una grossa promessa, uno dei maggiori, il miglior giovane addirittura poeta contemporaneo del Canada anglofono. E lui poi, insomma, che cosa fa? Subito dopo, anche preso da quest'ondata un po' beat, quest'ondata un po' tipo figlio dei fiori, si trasferisce in Grecia e in una splendida isoletta insieme a tanti altri artisti, un'isoletta Idra. E lì sempre continua a coltivare la sua passione per la poesia, ma comincia anche a entrare in gioco la musica. Salutiamo Emilio che ci saluta e che ci dà la buonasera e la buona musica. Naturalmente la buona musica noi la diamo a tutti. E vi ricordo ancora che stiamo parlando di Leonard Cohen, e questo artista che in qualche modo poi è diventato anche un po' emblematico. Vi dicevo prima, il Canada lo ha eretto un po', non dico un monumento nazionale, secondo me ci arriveremo, ma veramente lo ha eretto a simbolo artistico di questo splendido paese, giovanissimo paese, che non ha radici antichissime se non quella dei nativi, però che comunque è anche attualmente, anche il suo primo ministro attuale Trudeau è uno di quelli che viene osannato proprio perché viene visto come grande politico, aperto a tutte le culture e soprattutto all'inclusione. Dicevo, lui ha avuto tantissime onorificenze canadesi, ufficiale dell'Ordine del Canada, compagno dell'Ordine del Canada e grande ufficiale dell'Ordine Nazionale del Quebec. Ma questo solo per dire appunto che grande persona, che grande stima ha ormai in questo paese, ma un po' in tutto il Nord America, in tutta l'America, ecco, l'America quella che noi conosciamo a volte un po' troppo capitalistica e un po' troppo distratta forse, ma allo stesso tempo quell'America, quel Canada che è molto vicino tra parentesi agli americani, alla cultura americana, che è sempre un po' fermento, che è un po' il centro di fermenti culturali più importanti nel mondo. If you wanna drive, climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. And if you want another. La gioia di The Dance of Life di Narada Michael Walden ha sopraffatto di colpo un po', come dire, la malinconia e la tristezza di Leonard Cohen. Ma ci sta, perché questo mi dà un po' il là, ecco, non mi veniva la parola, per capire meglio un po' il personaggio di cui stiamo parlando stasera. Perché io vi dicevo, no, Leonard Cohen si trasferisce alla fine degli anni 60, metà, fine degli anni 60, sull'isola di Hydra, in Grecia. Poi stavo pensando anche all'isola di Hydra, Adria, hanno tutte queste assonanze con il mare, con l'acqua. Vabbè, questa è una cosa che c'entra poco, però insomma ci stavo pensando oggi. E lui, un po' seguendo l'onda beat o hippie, però la cosa che colpisce molto di più è proprio questo suo contrasto con quel periodo, cioè la sua produzione. Suzanne, che abbiamo ascoltato prima, fa parte del suo primo LP che si chiama, che è del 67, si chiama Songs of Leonard Cohen, e le recensioni di quel disco non sono state eccezionali, nel senso che questo pessimismo che traspare, o comunque questa malinconia più che pessimismo che traspare dai brani di Leonard Cohen, non era proprio di moda in quel periodo. Ricordiamoci che stiamo parlando di un periodo in cui Figli dei fiori, Amore universale, cioè tutte cose che inducevano anche un po' a una visione felice, una visione più che positiva del mondo. Arriva questo qui, questo canadese che voleva fare il poeta e poi il cantautore, e piazza questo LP che in qualche modo, ripeto, a livello di critica non viene molto apprezzato, salvo poi con il passare degli anni questo disco viene considerato forse il migliore o uno dei migliori di Leonard Cohen, ed è un disco che, pensate voi, influenza poi tutta un'altra serie di autori nel mondo, anche in Italia. De André ha tradotto Suzanne, ha influenzato De Gregori, ha influenzato tantissimi autori, e stiamo parlando quindi di un qualcuno che alla sua prima uscita, al suo primo impatto con il mercato, ma più che altro col non parlerei di mercato, parlerei più di ambiente culturale mondiale, fa di queste cose. Io credo che insieme a lui forse Bob Dylan, ecco, ha avuto questo merito, ha avuto questo chiamiamole tra virgolette potere, anche per gli altri. Poi insomma in quegli anni si andava anche spesso a ruota, lui invece ha completamente girato in senso contrario, e pur facendo questo ha imposto in qualche modo una subcultura importante, che poi nel tempo si è vista. Salutiamo anche Nino che ci saluta, e noi lo salutiamo con molto affetto. E quindi ecco, credo che già da lì, da questa sua prima uscita, si capisce interamente di che pasta è fatto questo personaggio, ed è veramente un personaggio di primo livello, sicuramente di primo livello, perché poi la sua vita artistica, e non solo, perché dico non solo, perché comunque Leonard Cohen ha vissuto per anni un po' vittima, più che altro prigioniero, ecco, della depressione, che lo ha veramente devastato, lo ha influenzato fino alla fine. Credo che solo negli ultimi anni della sua vita, che durante la vecchiaia abbia un po' respirato, ma ha subito in maniera pesante appunto i contraccolpi di questa condizione permanente, che poi, come vi dicevo prima, devasta l'animo e il corpo. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with a clamp on its jaws. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. With its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna. I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. E si parlava un po' di alcune caratteristiche particolari di questo artista, e non ultima è quella della malinconia, della melanconia, io la chiamerei, ecco, in maniera un po' più tecnica, tipica anche di chi soffre un po' di sindrome depressiva. E Cohen è uno di questi. Ma per lunghi anni ha sofferto di depressione. Pensate che troviamo richiami alla depressione, quindi a una vita un po' così, tesa al pessimismo e al suicidio, in tantissime sue canzoni, soprattutto del periodo giovanile, dicevo, perché comunque è lì che in quel periodo, poi con il passare degli anni, anche se stiamo parlando di uno che passava per essere veramente felicissimo, però col passare degli anni questa cosa si è attenuata, e questo lo si è notato anche un po' nei suoi brani. E l'ultimo che abbiamo ascoltato, che è Take, se non sbaglio è Take the Waltz, quindi fai questo ballo, questo valzer, prendiamo questo valzer. Non so se ci avete fatto caso, ma è un brano che un po' richiama delle sonorità tipiche delle sue opere. Il valzer, il tempo di valzer torna spesso nella musica di Cohen, come se tornasse nella sua mente, nella sua memoria, questa danza tipica, come se riemergesse un po' dal suo passato, dalle sue radici, perché comunque diciamo che il valzer è un ballo tipico dell'Ottocento, ma che poi contrasta in maniera forte con quelle che sono anche le tematiche da lui trattate. È veramente un contrasto incredibile. Io ci facevo caso proprio oggi mentre stavo preparando il programma, Stavo preparando la scaletta, era un dettaglio su cui non mi ero mai soffermato. Il valzer, comunque, il tempo di valzer, quindi preso come negli anni nell'Ottocento, quindi stiamo parlando di valzer viennese, no? Un ballo tipico, anche un po' in qualche modo che denota la gioia, se pensate ai valzer viennesi, a tutto quel movimento musicale, a tutto quel periodo storico ben preciso che è caratterizzato dagli Strauss soprattutto. Bene, quindi viene identificato come momento storico anche di bel vivere, di gioia, e lui usa invece questo tempo di valzer in maniera un po' più malinconica, un po' più triste, ed è tipico un po', dicevo, della poetica di Cohen. Pensate che lui in uno dei primi brani, Beautiful Losers, la moglie del protagonista ad esempio si suicidia, Seems So Long Ago, Nancy, che poi è conosciuta un po' più come Nancy, questo brano, ed è un brano anche ripreso da De André, questo parla di una ragazza che è veramente esistita, è conosciuta appunto da Cohen, che si spara la testa con una 45 Magnum, insomma. E quindi il suicidio è anche menzionato in tantissimi altri brani, One of Us Cannot Be Wrong, Dress Hills Rang, insomma è un qualcosa che pervade un po' questo clima un po' cupo, un po' depressivo, pervade un po' la produzione di Cohen. Cose che naturalmente poi noi non ritroveremo anche nelle sonorità, anche nella poetica, anche negli arrangiamenti, non troveremo più nei brani più recenti. The birds they sing. Start again, I heard them say, don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bells, let's still. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. For signs, the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every government. Signs were all to see. Crowd while the killers in high places say their prayers out loud. But they've summoned up a thundercloud. They're gonna hear from me. Ring a bell that still could ring. You can add up the parts, you won't have the sum. You can strike up the march, there is no drum. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a Radio Cerrano Web, sono le 21:24 minuti primi. Questa sera a schegge il sottoscritto Carl Bartalboom sta parlando di Leonard Cohen. Spero di aver fatto, di fare cosa gradita a tutti quelli che ci stanno ascoltando, sia via web sia via attraverso la nostra pagina Facebook, attraverso anche le piattaforme che poi riverberano nella rete il nostro segnale. Questa mi è venuta bene. e quindi insomma ci potete ascoltare su diverse piattaforme, ci potete anche ascoltare sul nostro blog, sul nostro sito www.radiocerrano.net. andate lì, ascolta la radio e poi cliccate e ascolterete la nostra musica e le mie parole. E spero che le mie parole naturalmente non siano così tante, così anche incomprensibili. Farebbe arrabbiare tantissimo il maestro Cohen dall'alto che ci sta guardando, spero, e ascoltando. Battute a parte, Leonard Cohen è un tipo insomma poliedrico, lo abbiamo capito, lo stiamo comprendendo attraverso questo piccolo viaggio nei meandri della sua musica e della sua poetica. È un tipo poliedrico e a cui piace giocare anche sui contrasti. E abbiamo parlato prima anche della sua depressione che ha pervaso parte della sua produzione artistica, ma naturalmente non è solo questo che ha caratterizzato la sua produzione, anzi diciamo che forse l'intera sua produzione musicale poetica è stata caratterizzata dalla giustizia sociale, dall'aborto, al sostegno quindi all'aborto, al sostegno agli oppressi e anche l'impegno contro la guerra. La giustizia sociale si è presentata molte volte come tema fondamentale nel suo lavoro. E lui per un periodo è stato anche considerato molto di sinistra, molto, tantissimo di sinistra, molto vicino addirittura alle posizioni socialiste cubane, e poi ha tentato anche di spiegare politiche di sinistra con elementi culturalmente conservatori. Lui ad esempio in Democracy lamenta le guerre contro il disordine, le sirene il giorno e la notte, gli incendi dei senza tetto, le ceneri dei gay, e poi conclude insomma in questo brano che ascolteremo fra un po' che in realtà gli Stati Uniti non sono una democrazia. C'è una critica feroce appunto alla politica americana, a quella politica insomma dell'esportazione della democrazia spesso che gli americani hanno fatto e continuano a fare. Lui è stato uno di quelli, pur essendo appunto di cultura americana, perché sì, canadese, ma comunque di cultura americana, un grosso oppositore, un rappresentante, un cantore degli oppressi, dei più poveri, dei senza tetto, di quelli che subiscono anche la violenza capitalistica, la violenza in generale. Se possiamo dire, forse un po' di problemi li ha avuti nel, ed è stato criticato per questo, nella sua posizione in quanto ebreo, no? Contro, quindi Israele contro i palestinesi, lui non ha preso una posizione decisa, ha spesso parlato sia con i soldati israeliani che con gli arabi, lì lo hanno un po' criticato dicendo che non è riuscito, un brano in particolare, Lover, Lover, Lover, non è riuscito a prendere una posizione netta. Battered heart of Chevrolet. Democracy. sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat, from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here, in the desert far away. Democracy is coming to the USA. Democracy era il titolo di questo brano, è che ci ha permesso un po' di sondare quelle che sono anche le tematiche, forse le più importanti della produzione di Cohen. E dicevo, no, vi dicevo prima di questo brano che comunque la giustizia sociale o temi sociali importanti sono all'ordine del giorno nella produzione di Cohen, nella poetica di Cohen. Quindi pessimismo e ironia si intrecciano spesso nella produzione, nelle canzoni, nei brani, nella musica e nelle parole di questo artista. Di origine polacca, dicevo prima, e poi naturalmente naturalizzato canadese, ma in qualche modo uno dei massimi rappresentanti della poesia e della musica americana, inglese, anglofona. Dicevo, lui spesso utilizza anche l'ironia, utilizza questo suo modo anche sarcastico, no, di trattare tematiche anche importanti. Lo ritroviamo in tantissimi brani, questo suo modo di essere, ma anche nella sua vita privata, una vita abbastanza, come dire, sottotraccia, sottotono, nonostante il clamore, l'importanza delle sue opere. Dicevo, pessimismo e ironia che noi ritroviamo spesso nei brani di Cohen, che poi in qualche modo alla fine del suo percorso, lui ha passato una serie di, come abbiamo visto, una serie di momenti importanti che lo hanno segnato, quindi la depressione, ecco, quindi forse il pessimismo, l'impegno sociale e quindi ecco la difesa dei più deboli. Alla fine lui poi cosa fa? Alla fine vede che l'unica ragione e l'unico punto fermo nella vita di un uomo, nella vita di una collettività, nella vita di una comunità, se vuole resistere, se vuole sopravvivere a se stessa, in fondo è l'amore. È l'amore che potrà salvare questo mondo. Lui lo dice chiaramente: ho visto il luogo e le nazioni in autunno, ma l'amore è l'unico motore di sopravvivenza. Slowly what I only know, the limits of that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dancing to the end of love. Questo diciamo che è uno dei brani che ha fatto conoscere un po' alla moltitudine Leonard Cohen. Non so se molta gente che ha ascoltato questo brano, soprattutto in televisione, poi alcuni brani, ecco, forse questo mi dà un po' lo spunto per dire che diversi brani di Leonard Cohen sono stati utilizzati dalla pubblicità, mi ricordo una pubblicità della B&B, poi un programma televisivo che sicuramente vi ha riportato, che questo brano vi ha riportato alla mente, che poi è Dance Me to the Hand of Love, si parlava di amore, no? E guarda caso Cohen qui parla di la fine di un amore. Però ecco, questo brano mi dà anche la stura per parlare un po' di anche delle sue origini ebraiche e quanto questo lo abbia anche influenzato, di un po' il suo percorso religioso. Voi direte perché? Perché per un orecchio più molto attento, ecco, in questo brano di certo avrete potuto rintracciare delle sonorità klezmer. Il klezmer è un po' la musica tipica ebraica. Noi abbiamo sondato, quando dico noi mi riferisco a me naturalmente, a alcuni miei soci, soprattutto a Emilio Balducci, con cui avevamo messo su questo splendido festival Ethno Rock, che poi si era trasformato più che altro in un world, musica world, come si usa dire adesso, quindi un po' dalle connotazioni un po' più ampie. E mi ricordo che abbiamo trattato proprio il tema klezmer, che è la musica appunto tipica degli ebrei, e quel violino che voi sentite sotto il brano che abbiamo ascoltato adesso è tipico del tipico klezmer. Violino, quel tipo di violino, poi c'è il clarinetto che viene usato spesso, e poi insomma è tutto un mondo da scoprire, perché anche qui le origini ebraiche, quando vi parlavo di pessimismo e ironia, l'ironia a volte anche abbastanza truce di Cohen. È tipica dell'ebreo, no? Che riesce anche a ridere di fatti poco gradevoli. E, ecco, quindi dicevo, questo brano Dance Me to the Hand of Love mi introduce un po' su un altro momento importante, o comunque argomento importante, o argomento che ha influenzato molto l'attività di Cohen, cioè quella della religione, perché insomma, dicevo, lui ha intrapreso una serie di percorsi partendo sempre da quello ebraico, che per poi tornare sempre, ripeto, a quello ebraico. In mezzo c'è stato un'adesione, un paio di adesioni al buddismo, tant'è che lui negli anni 90, 90 e 96 per lungo tempo si è fatto monaco buddista, vivendo all'interno di un convento in California, per poi ritornare uscirne, quindi ritornare, ma più che altro non direi ritornare, perché lui nelle sue interviste ha sempre tenuto a sottolineare il fatto che non fosse mai uscito dalla religione ebraica, che la sua religione era quella ebraica. È stato un percorso di crescita, secondo le sue parole, è un percorso di crescita, ripeto, importante, che a volte l'ho anche descritto in maniera un poco consono al suo personaggio, perché ad esempio durante alla prima guerra tra ebrei, tra quindi Israele e arabi, se non sbaglio stiamo parlando della prima guerra del Kippur, lui si esibì per i soldati israeliani, e qui, come vi dicevo prima, un po' questo i puristi non gliel'hanno mai perdonata, e dicendo sempre un po' che ha mantenuto in questa parte politico-religiosa un po' il piede in due scarpe, però lui ha sempre detto che in fondo la matrice unica di qualsiasi religione è l'amore, è il bene, e tutto ciò che è bene, tutto ciò che è amore, poi permetterà, come vi dicevo prima, al mondo di andare avanti. This is Radio Chirono, a web radio from Adriatic Coast, Abruzzi, Italy. I've heard there was the secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. And from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. tematica prettamente religiosa quella che avete ascoltato sino adesso, no? Con Alleluia, un altro brano celeberrimo, un altro brano che ha segnato la carriera e la notorietà di Leonard Cohen, questo è indubbio, ma poi è stato spesso, uso una brutta parola, coverizzato un po' da tantissimi, tra cui ultimamente i Pentatonix, altri gruppi importanti, altri cover importanti. Stavamo parlando dell'amore, che è anche un po' il centro della vita artistica e non solo di Cohen. Lui, facciamo un po' di pettegolezzi, ha avuto due figli, Adam, anch'egli cantautore, e Lorca, e i due figli sono venuti entrambi da una relazione con l'artista Susan Arrowood, e poi ha avuto anche una lunga relazione sentimentale con l'attrice Rebecca De Mornay, e poi ha anche detto negli ultimi anni aver avuto un rapporto occasionale con Janis Joplin, che poi sarebbe anche la protagonista della celeberrima canzone Chelsea Hotel, e perché vi dico questo? Perché nell'ultimo periodo della sua vita, nel 2016 credo, poco prima che lui morisse, lui ebbe un bellissimo gesto, fece un bellissimo gesto, perché inviò un bellissimo biglietto, fece recapitare un bellissimo biglietto a Marianne Helen, che poi era una donna norvegese con cui lui aveva avuto una storia d'amore, anch'ella ispiratrice della canzone So Long Marianne e di molte altre. E Marianne infatti morì nell'estate del 2016, e poco prima, pochi mesi prima, pochi mesi prima di Cohen, proprio perché poi Cohen è morto a novembre, e lui riuscì quindi a fargli pervenire questo bellissimo messaggio, e la fine di questo messaggio è struggente, ve lo voglio leggere. Goodbye old friend, Handel's love, see you down the road. The loss, the full extent. the solitude of strength. I said there'd be a flood. I said there's nothing left. I hope that you would come. To my room, you stand there at my desk. Begin your letter to the one who's coming next. Begin your letter to. Bellissimo questo brano Letters, che poi mi ha fatto un po' da trade union tra quella bellissima frase, no? Tra la musica e quella bellissima frase che vi citavo prima, cioè quella che lui ha fatto pervenire al suo amore indimenticato che stava per morire, che dopo alcune settimane sarebbe morta, e dopo alcuni mesi poi sarebbe morto lui, Leonard Cohen, cioè stiamo parlando della sua Marianne. Lui diceva appunto goodbye old friend, handles love, see you down the road, quindi arrivederci vecchia amica, amore infinito, ci vediamo sulla strada, ci vedremo sulla strada. Ed è stato così, è stata una conclusione veramente quasi cinematografica, importante e bellissima di questo percorso musicale, di questo uomo che ha sicuramente avvicinato tantissimo la figura del poeta a quella del cantante, del cantautore, del musicista. Io direi proprio che è stato uno dei massimi, una delle massime espressioni. Vi dicevo prima, nasce come poeta, poi naturalmente si evolve anche come musicista. Quello che viene definito l'uomo dalla voce di rasoio arrugginito. E poi lui ci scherza anche sopra, non si capisce bene se in un brano di Tower of Song lui dice sono nato così, non avevo scelta, sono nato con il dono di una voce d'oro, e noi siamo d'accordo, anche se lui lo dice in maniera ironica. Lui usa sempre queste iperboli, anche questi ossimori, se volete, no? Due cose che sembrano completamente distanti e che lui e poi invece mette insieme. Io vi voglio salutare, Elio dice che Alleluia è uno dei brani più belli, sono d'accordo, ma credo anche che forse è uno dei brani che lo ha reso più celebre, l'ultima Letters che abbiamo ascoltato, credo che sia qualcosa di importante, E io vi voglio salutare con un altro simoro musicale di Leonard Cohen, Villanelle of Our Song, Villanella del nostro tempo. La villanella, sapete che è un genere musicale, tra parentesi, sviluppatosi molto nella zona, nelle nostre zone, nelle zone del regno delle Due Sicilie, nel napoletano, e non solo, ma anche un po' in Italia. È un tipico scherzo musicale. Noi, tra parentesi, abbiamo qui ad Atri un autore del Cinquecento, Tudino, che ha scritto diverse villanelle, poi pubblicate addirittura a Parigi nel 1500, vi dicevo. E quindi lui usa la villanella, quindi villanella del nostro tempo. Anche qui un apparente contrasto lessicale, un apparente ossimoro, ma che in fondo la dice lunga sulla sua poetica. Io vi voglio salutare con questo brano. Saluto anche tutti quelli che ci sono stati ad ascoltare. Vi ricordo che Schegge questa sera si è occupato di Leonard Cohen. Se vi siete messi all'ascolto adesso, peggio per voi, però vi posso dire che potete riascoltare il nostro programma scaricando dal podcast, andando sul nostro archivio. Del nostro archivio. E quindi questa era la voce di Leonard Cohen. E no, volevo salutare i vini. Noi, sapete, siamo una radio free, completamente no profit, però insomma i vini del poeta ci forniscono una squisita acquavite. Noi siamo molto contenti, li salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato via Facebook, ma anche via radio. E l'appuntamento credo che sia per martedì, ancora con la storia del blues, con me e con Vince Daddy Butterfly. Buona nottata con Radio Cerrano Web. From bitter searching of the heart, quickened with passion and with pain, we rise to play a greater part. This is the faith from which we start. Men shall know commonwealth again from bitter searching of the heart. We love the easy and the smart, but now with keener hand and brain, we rise to play a greater part. The lesser loyalties depart, and neither race nor creed remain from bitter searching of the heart. Not steering by the venal chart that tricked the mass for private gain, we rise to play a greater part. Reshaping narrow law and art, whose symbols are the millions slain, from bitter searching of the heart, we rise to play a greater part. To play a greater part.